stasera c'è allegria, tutti intorno è una magia. Canteremo una canzone che ballare vi farà. Siamo insieme a tanta gente che si vuole divertire, e il buon sangue che non mente certamente esploderà. Ciccio mi tocca la ciocca, e sulla bocca mi vuole baciare. Certo sono sciocca, ma quando le scocca l'amore trabocca e sa trasportare. Ma che ti piglia nel parapiglia, muore la briglia e lasciati andare. Sa chi conviene che senza catene lasciare le pene fuori di qua. Forse un seme di pazzia con un po' di frenesia sta scorrendo nelle vene, chissà dove porterà. Questo mondo ci appartiene e godere ci conviene. Siamo nati per donare gioia e amore in quantità. Ciccio mi tocca la ciocca, e sulla bocca mi vuole baciare. Certo sono sciocca, ma quando le scocca l'amore trabocca e sa trasportare. Ma che ti piglia nel parapiglia, muore la briglia e lasciati andare. Sa chi conviene che senza catene lasciare le pene fuori di qua. Ma che ti piglia nel parapiglia, muore la briglia e lasciati andare. Sa chi conviene che senza catene lasciare le pene fuori di qua. Ora che sera c'è la balera, dove si suona, si canta e si va, con l'orchestrina